Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non so se ci rendiamo conto, non so se vi rendete conto, state facendo vincere come conduttore radiofonico dell'anno, poi chiudiamo questa cosa, anzi no, la ripeteremo per tutta la settimana, dobbiamo fare un tormentone, state facendo vincere, ed è tutta colpa vostra che non vi svegliate, perché siete molti di più di Radio Maria, Radio Maria. Non so se, cioè, non so se capite, Radio Maria, Radio Beh, Maria. Sì, no, ma è inutile che fai quello adesso. Tu non hai mai sentito 30 secondi ma di Radio no, Maria. Ma non ci e penso allora non neanche. Rompere le balle. Aspetta un però attimo. Però dico che c'è il diavolo e l'acqua santa. Noi siamo sì, il diavolo. Sì, ma non è questo, no, ma lascia perdere il diavolo. Allora, state facendo vincere. No, ma state facendo vincere. State facendo vincere come conduttore dell'anno. Sì. Cuffie, ricordo cuffiedoro.it. State facendo vincere Padre Livio Fanzaga. Don Livio Fanzaga. Ma dico io solo, Fanzaga, detto ricordo padre delle Livio. Cose di Fanzaga. Ecco, te lo faccio sentire. Innanzitutto quando diceva che l'ideologia dei 5 Stelle è la seduzione di Satana. Ma, sapete come comincia la frase con cui comincia l'ideologia? Sapete? Man is God. L'uomo è Dio. Capito? L'uomo è Dio. E il 25,5% degli italiani è andato in voto a questa ideologia. L'uomo è Dio. Ma questa è una sola delle tante seduzioni che ci sono. C'è la seduzione di Satana. Hai le seduzioni di Satana, amici miei, ma non potete far vincere quest'uomo. Padre Livio Fanzaghi, non voglio essere buono, non voglio essere sportivo. Bisogna distruggere questa roba qui. Come capito? Distruggere? Sì, ma distruggere dal punto di vista, come dire, della vittoria di Cuffia d'Oro, eh. Bisogna sconfiggere questo Don Livio Fanzaga, che pare che sia al 28% dei voti. Sono i poteri forti, amico mio lì. Ma no, ma che me ne frega a me? Io, ma che fai la vittima? Che fai la vittima? Ci sono già i poi complotti, i poteri forti. Ma che forti, fai la vittima? Il Vaticano. No, a me non me ne frega dietro niente. Dietro c'è il Vaticano. A me non me ne frega nulla del Vaticano, eccetera, eccetera. Non me ne frega niente di tutte queste cose. Chi vota, i poteri Dan forti, Brown. Il Vaticano. Bisogna battere Padre Livio Fanzaga, che è il simbolo dei conservatori in Italia, contro i gay, contro il matrimonio, contro tutte le cose che vogliamo noi, amici della Zanzara, popolo della Zanzara. Votate contro Livio Fanzaga. No, poi mi risulta che le cuffie d'oro sono cuffie gay, quindi è un premio che lui non può no, ritirare. No, ma non è vero quello. Non è vero. Non è vero. Mettiamo in giro delle idee. Facciamo un po' di disinformazia, no, come si fa in senti Russia. Senti nella questa tua Russia di Putin. Aspetta. Si fa disinformazia. Ma quando mai? Cuffie aspetta gay sono quelle, non no d'oro. Aspetta, allora, Livio Fanzaga dice uomo e donna elementare Watson. Senti Livio Fanzaga. La Chiesa non discrimina gli omosessuali, ma dice chiaramente che i maschi sono maschi, che le femmine sono femmine, che non si può cancellare la mascolinità e la femminilità e che il matrimonio è il patto d'amore fra un maschio e una femmina, fra un uomo e una donna. Capito? Questo è elementare Watson, direbbe Sherlock Holmes. Il cardinale quindi applaude, ma oggi le cose elementari, figliolo caro, non sono mica elementari, eh. Oggi 2 più 2 fa 5, 2 più 2. Dai, che ti cagli. carichi anche tu, dai che ti bene. Carichi. No, dai però non farmelo sentire perché è bravissimo, altrimenti voto per lui, eh. No, no, no, no, no, no, no, non farmelo sentire perché merita di vincere le cuffie gay, Fanzaga. Ah, le cuffie Fanzaga, gay. Fanzaga, ecco. Votate il prete Fanzaga, meraviglioso. Sì, su cuffie gay, Fanzaga, però. Fanzaga, Fanzaga. Vaffanculo, va, te Fanzaga. No, no, no, fammelo sentire dopo perché no, mi carica, Fanzaga. Togliete il microfono a questo imbecille di Parezzo che non ha capito nulla. Qui bisogna vincere, mica bisogna dire bravo, non è bravo, bisogna vincere e basta, sei un coglione, sei. Vabbè, passiamo alle cose serie, non che questo non sia serio. Cuffiodoro.it, votate Cruciani, votate la Zanzara, punto e basta. Adesso faremo voto Antonio, voto Antonio, tutta la settimana, votandone, tutta la settimana. Votandone, votandone. Ah, c'è qualcuno che dice che ti devi comprare la carta igienica, eh? Anche padre. Aspetta. Amort vota Cuffie d'Oro la Zanzara. Anche padre Amort e Cruciani. Adesso glielo facciamo dire, lo chiamiamo e glielo facciamo dire. Sì, faglielo dire. Senti, senti qualcuno che dice che ti devi comprare la carta igienica. Ma dove? A Radio Klux Klan, là, Radio Olio. Pronto, ciao. Sono Piero dalla provincia di Torino. Allora, Parenzo, Parenzo, vai in un supermercato, comprati 48 rotole di carta igienica e vedi di farne buon uso. Mentre, per, poi te lo faccio la traduzione in italiano. Sì. Pour le Marocchini, nel castel de Newcastle, cui è toujours, pour le dans le telefono alla radio, vous êtes des émars. Ma pas les marbettes, parce que les marbettes, c'est une bonne bête. Vous êtes des hommes et marres. Va bene, va bene, va bene, io censuro perché ho capito e naturalmente prendo le distanze da chi dice parolacce in radio. Cioè, capisci, quello prende le distanze, prende le distanze. Ma da cosa? Dovresti chiudere la radio con quello che se non è che prendi le distanze, dovresti chiudere, ma non puoi neanche aprire quella radio lì, devi prendere le distanze da tutto. Questo è sbagliato. Anche da te stesso. Non dovrebbero prendere i soldi, non dovrebbero prendere i soldi pubblici, questa è un'altra cosa. Non puoi dire prendo le distanze perché hai detto parolacce. Fino a un minuto prima va chiamato qualcuno dicendo negri! Ma dai. Brutta gente, brutta, brutta, brutta, brutta. Oh, a noi piacciono le persone che parlano chiaro. Marchionne contro Montezuma, come dice D'Agostino. Sì, e della Valle contro Marchionne, però. E della Valle contro Marchionne. Quello è buono, eh? Insomma, se si sbranano tra di loro. Guerra tra ricchi, amico mio. Guerra dice tra Marchionne, ricchi. Senti con questo accento un po', no? Abruzzese, mezzo abruzzese, no? Che calabrese, abruzzese, mezzo abruzzese. No, mezzo abruzzese, mezzo canadese, mezzo svizzero. Questo mischione che fa il Marchionne, una persona straordinaria che è un genio totale. Senti, non voglio vedere gente in settima o dodicesima posizione, voglio, non mi interessa, perché ieri a Monza è stato un disastro Ferrari, no? Senti Marchionne. Non voglio vedere gente in settima posizione, in dodicesima, sono cose che a me non interessano. Stupendo, sono cose che a me non mi interessano. Settima posizione, 12. Sì, però, caro Marchionne, non è che puoi vincere in Formula 1. Se non è che arrivi tu e adesso uno vince da un momento un giorno all'altro, eh. Sì, però è numero uno. Comunque, gli ho detto, se non mi interessa avere gente settima, dodicesima posizione. Sto Montezemolo, questa rabbia enorme che gli ha fatto. Di fronte a tutto questo, cosa c'è da dire della politica? Quasi nulla. Che c'è stato? C'è stato, questi qua, i leader della sinistra, tutti con la camicia bianca, no? Parole, le parole di Renzi. Che abbiamo? Ah, sì, contro Razzi e Salvini in Corea del Nord, tra le altre cose. Sentiamo Renzi. La politica internazionale in quest'estate ci ha dimostrato dei campioni e degli statisti di straordinario livello. Per esempio, due autorevoli pensatori globali straordinariamente efficaci quali Antonio Razzi e Matteo Salvini sono andati in Corea del Nord. Io Salvini lo capisco, lui ha visto in cartina Nord Corea, ha visto Nord, lui ci si è buttato. Lui pensava ci fosse, era lì che cercava le camicie verdi, dice dov'è la fare, guarda in Spadania. No, guarda, è un'altra cosa questa. Ma la cosa sconvolgente è quello che ha detto a rientro, il senso di comunità che si prova in Corea del Nord. Sì, devo dire una cosa. Ha ragione. Sì, divertente. Sì, ma per carità, può anche avere ragione. Il presidente del Consiglio che si occupa e commenta da cabarettista il viaggio di Razzi e Salvini in Corea del Nord, ma chi se ne frega? No, no, attento. Cioè, le stesse errore. Cose. Vabbè, abbiamo errore. Tempo, abbiamo tempo. Lui è anche segretario del partito. Vabbè, non rompere le scatole con queste stronzate, dai. Errore, comizio aspetta, finale, aspetta festa dell'unità. Ti presento, quindi. Ma che c'entra? Ti presento, no, ti presento, è ti, il segretario del partito. Ti presento anche, una persona, quindi. Ti presento poi una è Renzi. Persona. Ma che c'entra? Oh, mamma mia, che tristezza. Poi è Renzi. Che tristezza. Amante libera come un dal New Rock della in galera. Dal New Rock della Zanzara al mitico Albano. Ciao, come stai? Seduto, e tu? Beh, anch'io sono seduto col microfono davanti. Devo svidoni accompagnare. No, stai calmo, Parenzo, stai calmo. Io voglio appoggiare in toto al 100% quello che ha detto in questi giorni. Al 100%, no, al 100%, forse anche al 150%. Quello che ha detto Albano. Quello che ha detto Albano sulla Russia e su Putin. Allora, lo voglio anche, voglio fare anche un piccolissimo commento. Ma scusa, una cosa che ho pensato durante questo weekend, Parenzo. Ma scusa, noi con la Russia che investe in Italia, pare che a Forte dei Marmi gli imprenditori sono preoccupati per il fatto che questi russi possano scappare. Numero due. Tre, la questione del gas, eccetera. Ma noi dell'Ucraina, ma cosa diavolo ce ne frega? Eccola. Ma che ce ne frega della questione dell'Ucraina? Perché dobbiamo renderci nemico Putin? Ma scusa, Albano, ho ragione o non ho ragione, Albano? Continua, continua. No, ma ho ragione o no? Ti faccio una domanda. Continua, mi sta piacendo quello che stai dicendo. Continua. No, ma lo so che ti piace. Per me, tu allora. Dimmi. È brutto la frase che hai detto, a noi che ci frega. Quella è brutta. Vabbè, però quello tutto questo poteva andare bene. No, ma, noi... ma quello, scusate, ma non sapete che l'Ucraina appartiene alla Russia da sempre? Sì. Prima era appartenuto a lui, sì. 80 anni di... Poi, come voi ben sapete, i russi l'hanno sempre definita, dal tempo degli zar in poi, o non ricordo bene il nome in russo, ma la chiamavano la piccola Russia. Poi l'altra frase si chiama, Ucraina vuol dire al confine, cioè è il confine con la Russia. Ma al di là di tutte queste cose... Cioè tu stai dicendo che sostanzialmente tutta, tutta l'Ucraina è russa, è roba russa. Ma perché l'Istria di chi è? No, l'Istria, tu hai detto una parte quindi... dell'Ucraina o tutta l'Ucraina è russa? No, una parte dell'Ucraina, come ben sapete, è russa. Sì. Khrushchev poi l'ha regalata all'Ucraina, l'hanno fatto, ma sempre stando sotto il dominio della Russia. Eh beh, adesso è finita. No, ma che adesso è finita? Il punto è una, io non capisco, se una parte dell'Ucraina vuole andare con la Russia, io non capisco perché ci dobbiamo opporre noi. Parenzo, spiegamelo, spieghi. Allora, non mi interessa discutere di geopolitica in questo contesto. Tu che cosa contesti? Il fatto che Albano, NATO e l'Unione Europea, vabbè, ma non dobbiamo metterci a fare. Non sono due associazioni di criminali, sbagliano, ma possono sbagliare. Grandi democrazie. Ci sono altri interessi del mondo. Perché del mondo. Perché vogliamo mettere le sanzioni contro la Russia, Albano? Secondo te sbagliamo? Ma non dovrei rispondere io a questa domanda. Vabbè, ma rispondi te, ma sei un cittadino. I politologi che hai di fronte a te. No, quello non è un politico. Secondo me è un passo sbagliato. Sì. Quello che noto da 30 anni che passi anche in Russia, perché un passaggio del Corriere della Sera che non mi è piaciuto è che Albano, Putin, quanto prende a serata, ho detto la verità, quanto prende a serata. Certo, ma giusto. Quello cioè che non quanto, ha chiesto, ma lavori solo in Russia o dappertutto? Grazie a Dio lavoro dappertutto, dall'America al Canada, eccetera. E da ma in Ucraina? Se ti chiamassero gli ucraini, liberi dal mondo Putin. Ma ho già cantato per gli ucraini. Non ho capito. Allora, il punto fondamentale, lui ha detto in maniera molto trasparente, come non fanno altri, che i russi gli danno anche 40-50 mila, giusto? Certo, 40-50 mila. Certo. 50 mila euro, nessuno lo dice chiaramente, nessuno lo dice chiaramente quanto prende a cachet. Per forza sostiene la Russia, va bene. Ah, lui d'accordo. Dice, Parenzo dice, scusami ma no, Albano, ma è normale, Parenzo ma dice che tu sostieni la Russia solamente perché ti danno 50 mila a serata. Ma quello un po' influenza ovviamente la cosa, ma oh no, benissimo. Rispondi a questa critica. Forse non sono stato chiaro, è la cifra che mi pagano anche in America, in Canada, ma infatti, va benissimo. E dove mi chiamano a cantare. Ma io ad esempio in Corea del Nord non andrei mai a fare la zanzara. Ma non puoi paragonare la Corea del Nord con non la Russia, Parenzo. Non andrei mai a fare la zanzara. Ma non puoi paragonare la Corea pagato da Putin. No, ma adesso dico ma io non è pagato io. Da Putin, non è che ti paga direttamente Putin, pagheranno degli impresari russi. Non andrei nei paesi dove fai parlare Albano. Chi ti paga Albano? Mi pagano i vari impresari che mi chiamano per le loro serate. Non è che lo paga il governo russo, poi sarà stato pure pagato non lo so, qualcosa per il governo, magari hai mai fatto qualcosa per il governo, per Putin direttamente? L'ho fatto nel 2005, ma non è per il governo, mi hanno chiamato per cantare con la Sinfonica di Mosca in occasione del Capodanno russo e c'erano tutti i grandi capi delle confederazioni russe e in più Yeltsin con Putin e le loro famiglie. Senti, ma e in un tavolo a parte, o meglio, dentro ho visto una cosa fantastica che non dimenticherò mai. Cioè? Tutti i grandi capi delle religioni che stanno in Russia, quindi islamici, quindi copti, quindi sì, ortodossi e cristiani, e erano tutti a un tavolo a mangiare insieme. Sì. Allora dico, le cose si possono fare quando si vogliono fare. È ancora a casa. Allora, abbiamo con noi Albano, Albano Carrisi, che in questi giorni è stato criticato da più parti per aver espresso la sua idea sulla Russia, che ha visitato, che conosce anche professionalmente, conosce personalmente Putin da tantissimo tempo. Benissimo. È stato introdotto e presentato come uno dei putiniani d'Italia. Albano, senti una cosa, ma Berlusconi per esempio è stato l'unico a dire che sono sbagliate le sanzioni, ma lui, tu lo vedresti bene come ministro degli esteri, Berlusconi, in questo momento? Io mi accontento di essere un cantante che va bene all'estero. No, Berlusconi, dico, Berlusconi. Scusa, non ho capito. No, domanda, Berlusconi, allora. Ministro degli esteri, anche per la sua amicizia con Putin. Beh, secondo me lo ha dimostrato alla grande, che ha saputo, sì, legare bene con tutti coloro che ha incontrato e che tutti i grandi capi di Stato. Per cui sarebbe perfetto in questo momento. Da Bush a Putin, perché va oltre il sistema della stretta di mando, le parole da dirci, eccetera. E questo, lasciatemelo dire, lo trovo geniale. E dunque, secondo te, in questo momento, se fosse ministro degli esteri, sarebbe un'altra musica? Secondo me sì. Capito, Parenzo? No, bisogna, ma ridargli rispetto, bisogna ridargli il passaporto. Rispetto il parere c'è parere un piccolo di problema, che non ha più il passaporto. Vabbè, ragazzi, in Italia ci manca soltanto che arrestino il Papa prima o poi. Tu dici che i magistrati sono impazziti, ci fanno i magistrati, ma non parlo dei magistrati, non parlo dei magistrati, cioè è un andamento che è veramente strano, però... cioè, giro il mondo e arrivo in Italia e vedo molte, troppe stranezze, non so il nome di che cosa, tipo? Non riesco a capirlo, tipo? Da italiano ne soffro, dimmi. Tipo la stranezza principale, tu dici Berlusconi che non può uscire dall'Italia senza passaporto, poi che altra stranezza? Che ne so, a Napoli, che faresti a Napoli, per esempio, dopo quello che è successo con la gente che si ribella, vanno in tre in motorino, hai visto che tragedia che è successa, sì? Ma è tutto, cioè non è Napoli, è tutta l'Italia che è sconvolta, dalla Sicilia a Lampedusa, da Lampedusa al nord, cioè succedono i fatti di una drammaticità che purtroppo li leggo solo qua in Italia. Gesù, per esempio, Putin, coi Marò. Ci vorrebbe Putin, dice Ci vorrebbe tu, Putin in Italia. Dice lui. Ma ci vorrebbe un po' di buonsenso da parte di ognuno di noi. Ma dico, Putin in Italia riuscirebbe a mettere a posto l'Italia, Putin, secondo te? Sì. Sì. Ma non lo chiedere a me, non lo chiedere a me. Beh, come non lo chiedere a te? Putin, lo conosci? Putin è il personaggio giusto per... è un russo e va bene per i russi, non... No, ma il suo piglio, il suo senso dell'autorità, dello Stato, che ne so, cioè lo conosci tu, no? Magari ti sembra in grado uno come lui, se ci vorrebbe uno come lui per governare l'Italia, un'Italia ingovernabile o no? È un'Italia purtroppo ingovernabile, questo lo vediamo, è sì, cronaca di ogni giorno. E dunque un punto... è la ricetta? Però c'è un'altra cosa che mi fa pensare bene. Cosa? Dimmi. Io quando vedo che il Papa Francesco esce dalla sua finestra e di fronte a sé ha un esercito di fedelissimi in adorazione, vuol dire che c'è anche l'altra Italia che aspetta che le cose cambino con l'Italia. Oddio, adesso la gente, e tra quelli mi ci metto anch'io. La gente in adorazione di Papa Francesco. Beh, sì, la domenica sono lì. Sì, quello certo. Senti una cosa, io voglio capire. Ma ti rendi conto che dici? Sì, la gente in adorazione di Papa Francesco. Vabbè, quella non è una verità. Sì, ma non è una garanzia perché le cose vadano meglio delle persone che sono in adorazione. È una garanzia perché sotto quell'aspetto c'è l'altro aspetto degli altri italiani che ancora non possono o che non lasciano la possibilità di poter essere italiani sotto tutti i punti di vista. Senti un attimo, Albano, ma per esempio Putin, la sua legge per cui non si può fare propaganda sui gay è una legge buona secondo te? Va fatta questa legge? Ogni nazione, ogni popolo ha i suoi credo, ha la sua tradizione. Beh, sì. Se non lo pensa oggi, lo penserà tra un anno, 50 anni, non lo so quant'è, però bisogna saper rispettare anche quelli di cultura diversa. No, d'accordo, per vietare la propaganda gay è giusto secondo te? Questo ti voglio chiedere. Se ti rispondo da italiano ti rispondo no, perché anche loro hanno diritto a vivere una vita come secondo il loro... Però tu dici in Russia, siccome... Io non dico in Russia, c'è un altro tipo di mentalità che... che è quello che è. Che io non andrei a suonare, io fossi un grande artista. Ma che c'entra, dai, non su. Come non andrei in Siria, come non andrei in Iraq, ma non è la stessa Califfo, cosa. Come non andrei, capito? Io non andrei a dare soldi alle, no, o prenderei soldi dalle dittature, tutto qua. Senti, io, ma Putin, ma io è, sbaglio, Putin è un tuo fan, cioè sente le tue canzoni. Chiedilo a lui. No, tu l'hai, l'hai, però va benissimo poi. Cioè, no, chiedilo a lui, come faccio a chiamarlo? Lui, ma c'è un cellulare sto Putin? È difficile. Se lo chiami ti risponde. Ma ha un cellulare Putin? Come funzionano? Un Putin risponderà a un cellulare ogni tanto? O no? Chiedilo a lui, chiedilo a lui. Da. Si sì, pronto in Siberia, pronto per Albano Carrese in Siberia. Ma questi beh, ma tu sei veramente sta facendo la caricatura di Putin, come uomo pericolosissimo, dai ragazzi. Ma che pericolosissimo? Qual è pericolosissimo? Dio, c'ho anche il telefono sotto controllo dal KGB. Albano, dai, da io però voglio chiederti una cosa sui Marò. Pronto? Vota Cruciani. Pronto? E il conduttore? Beh sì, certo, bisogna votare il conduttore, eh? No, è Fanzago. Senti, tra Fanzaga, pochi minuti Fanzaga, Fanzaga, si Fanzaga, Fanzaga. Vabbè, Fanzago, Fanzaga. Ma pochi minuti c'è l'esordio di Floris sulla 7, eh? Ma chi se ne fotte? Mandiamo, ma all'inizio, 19:40. Ma non frega nulla a nessuno. Beh, stanno ascoltando la Zanzara, ma chi se ne fotte? Beh, la Zanzara è contaminazione, ma di media, di pubblico, di cose. Non c'è soltanto Rozzoni che telefonano. Ti calcio, ti caccio a pedate nel c'è sedere. C'è gente intelligente che ascolta, a pedate nel sedere, guarda, che vuol ti caccio, sapere, a vuol pedate, conoscere. A pedate nel sedere, ti faccio ascoltare Riccardo da Roma, grande richiesta, grande richiesta, beh. Riccardo da Roma, da parte del mitico fan club che ci sta aiutando molto in questa battaglia contro il cattolicesimo, contro i conservatori, contro padre Don Livio. Dobbiamo superarlo, ragazzi. Riccardo da Roma. Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Cioè, ma cazzo, avete distrutto questo paese! Mamma mia, secchie di merda! Ma vaffanculo, vaffanculo! Avete distrutto questo paese! Mamma mia, secchie di merda! Cioè, i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto un cesso, e adesso parlano di meritocrazia! Loro! Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Avete distrutto questo paese! Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Avete distrutto questo paese! Loro che hanno diviso l'Italia in due! Ci sono gli statali che non li puoi fare un cazzo, non li puoi licenziare, non li puoi mandare via, gli devi dare lo stipendio pure se rubano! Ma vaffanculo, va! È quella vecchia bappiona, ma che ha detto prima che è andata in pensione nel 75? Cioè siamo nel 2014, sono 40 anni che sta in pensione. Quanti anni c'hai? Quanti anni c'ha? Quella che ha detto una volta che c'aveva 68 anni, 69 anni, sono 40 anni che sta in pensione, ma chi li fotte i soldi agli italiani? Te o Berlusconi? Bappiona! Oppure andiamo al centro sociale, ma. Pannarella? C'è uno che se la piglia con te, Riccardo! No signora, nel culo lo prende lei e tutta la sua famiglia. No, capito? Che no, meraviglia. Riccardo, signora, nel culo lo può prendere lei tranquillamente. Riccardo, tanto da come parla sarà già abituata. Avete distrutto questo paese. Se capisce, domani Corriere lì a Montecitorio con becco io. Hai capito? Ma guarda, io non c'ho bisogno di venire a Montecitorio perché lavoro. Non so come te che c'ho cazzo da fa, che mi fotto la pensione, che non ha mai lavorato. Dai, coglione. Tranquillo. Riccardo, togliete Riccardo. Poi parlano di meritocrazia, capito? No? Avete distrutto questo. Ha telefonato Riccardo da Roma. Occhio, no. Pagliaccio, adesso mi fai parlare un attimo. Stai eccolo qua. Eccolo il solito Riccardo da Roma. Chiama. Vado subito al dunque. Una serie di insulti. Eccolo qua. Ipocriti, buonisti, cazzo comunisti di merda che rovinano la nazione. Ha telefonato quello da Torino, tra l'altro nota città di merda. merda piena, proprio se guarda pare peggio di Parigi, pare, no? Comunque ti avevo volevo dire gli zingarelli, poverini, queste persone, assumeteli, che cazzo. Allora, a parte sta cosa, assumeteli, no? Cioè, come capisci? Ma chi deve assumere? Lo Stato? Cioè, ma vogliamo regalare i soldi pure a questi? Ragazzi, io, caro Davide, a me queste cose qui mi mancano da morire, ti giuro, qualche volta non ci dormo la notte. Ormai hai questo gusto. No, ma non qui, ci dormo la notte. Le risento continuamente, qui. Le risento continuamente. Perché sei malato, continuamente, chiaro, sei continuamente. Ma basta. Basta, ragazzi, basta, dai. Non mi mettete sta roba, sennò divento dipendente. Divento dipendente di questa roba. Dipendente. Giuseppe dalla provincia di Napoli, c'è qualcosa da dire su Napoli fra poco, eh? Tutto quello che è successo, le foto pubblicate. Sì, Giuseppe, vai, vai. Ciao Parenzo e Cruciani. Vai, vai. Spero che Cruciani mi lascerà parlare, perché purtroppo ho qualcosa da dire non a suo favore. Quando mi ero arrabbiato all'inizio con Cruciani per quella frase "a noi che ci importa dell'Ucraina", perché in Ucraina stanno morendo decine, centinaia e migliaia di persone che non c'entrano niente con la voglia di potere. Vabbè, poi andiamo avanti. Cruciani, mi dispiace di averlo interpretato male il suo pensiero, poi ho visto che si è un po' corretto sulla cosa, però qua in Italia c'è una disinformazione assoluta di quello che sta succedendo in Ucraina. Poi? Fatto sta che per esempio l'aereo abbattuto non ne parlano più, prima hanno accusato la Russia, hanno accusato a più battute. Non abbiamo bisogno di informazioni sull'Ucraina qua in questa trasmissione, Giuseppe. Vogliamo aggiungere qualcosa? Non se ne fa nessuna trasmissione. Benissimo, grazie. Cesare da Udine, su, risolviamo subito la pratica, dai, Cesare. Mi sono Marco da Pescara. Caduto. Sì, buonasera. Sì. Pronto? Sì, dimmi. Sì, allora niente, volevo tornare sull'episodio dell'uccisione di quel ragazzo Leone Traiano. Sì. Niente, ti volevo contestare come al solito il tuo modo odioso di quando parli di Napoli, devi sempre ti sciacqui sempre la bocca, non ho capito perché. Insisti ancora su questa cosa qui. Ti voglio segnalare, mi hanno minacciato. Infatti non li conosce nessuno, non li conosci bene te, non li conosco bene io, eccetera. Ci sono dei punti fermi, però. Perché devi dire tre persone che vanno sul motorino? Ma perché è normale? E succede dove succede? Dove succede? Dove accade che tre persone vanno sul motorino? In qualche posto in Italia lo conosci? Un altro posto in Italia? Lo conosci un altro posto in Italia? No, a Roma non succede. A New York, se vai a New York, Harlem, vanno in 15 nella macchina, pistole alla mano. Allora vuoi avere ragione su questa cosa qua? Va bene, benissimo. Ma non voglio avere ragione. Vanno tre persone sul motorino e il punto qual è? Ma il punto non è questo, sto dicendo allora è stata o no anche l'illegalità diffusa di Napoli a uccidere questo? Anche ho detto anche sì o no? Sì o no? A Pescara ci sono altri tipi di illegalità. Tu se vieni dal collegio svizzero sei stato ma che vuol dire questo qua? Ma cosa vuol dire? Questo non si capisce. Allora, titolo di libero di sabato. Titolo di libero di sabato. Davide vittima dell'illegalità legalizzata. Molti ridono dell'idea che Napoli abbia ormai un codice suo dove ci si può fare beffe di ogni norma, comprese quelle della strada, ma è da qui che bisogna partire invece che accusare le forze dell'ordine, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Non si può dire una cosa del genere perché uno è razzista nei confronti di Napoli? Spiegamelo. Le stesse cose che dicono al bar qui vicino a Colle Corvino in giro per l'Italia. E allora perché i bar che ti hanno fatto i bar? Ti hanno fatto del male i bar? Se sei così snob, da pensare che nei bar si dicono solo stronzate? Di Napoli, in Italia si dicono sempre le stesse cose. Va bene, allora è normale andare in tre sul motorino senza casco, è normale che in un motorino ci sia forse uno o due pregiudicati o quello che è, tutto normale che no. Tu sai che in altri paesi, io non dico che sia giusto o no, tu sai che in America per esempio se non ti fermi a un posto di blocco, sei considerato automaticamente uno che vuole dunque sparano ogni tanto, sparano non volontariamente, negli Stati Uniti sparano se non ti fermi. E dove negli Stati Uniti in determinati posti la polizia non ci entra nemmeno. Vabbè, ma che c'entra questo? Ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra? Ma perché la città deve essere giudicata solo? Io non sto giudicando la città, ho detto semplicemente che questo signore, questo ragazzo, ed è una tragedia infinita, è stato ucciso anche da Napoli, capito? Anche da, cioè dall'illegalità diffusa di Napoli. È stato ucciso evidentemente per errore, perché è un fatto, non lo so, per errore o normale che uno spara a una persona, ha pregiudicato quello che vuoi tu. In fondo erano tre ragazzi. Sì, certo, che andavano a fare una passeggiata in giro per Napoli, no, in tre, senza ragazzi che stavano sul motorino. Gli fermi, beh, sì, ma tre ragazzi che erano sul motorino, perché tre ragazzi normali che erano sul motorino. Va benissimo, no, ma se tu pensi che tutto possa essere dovuto a tre ragazzi, no, che stanno sul motorino. Perché ti dico questo? Perché quando a Roma hanno sparato al tifoso del Napoli. Ma quello che c'è sono due cose diverse. No, quello era un comando organizzato di delinquenti. Un comando organizzato di delinquenti. Nessuno ha detto, ma sembra normale che uno va allo stadio con la pistola. Perché? Come nessuno l'ha detto? Tutti l'hanno detto. No, non l'ha detto nessuno. Vabbè, Marco, ti saluto. Non l'ha detto nessuno, hanno detto tutti, si sono scandalizzati perché il tifoso ha fermato la partita. Ma non è vero, hanno detto anche che. Ma come? Ma ti pare possibile che nessuno si sia scandalizzato perché uno ha sparato un tifoso del Napoli? Ma dico, stai impazzendo o no? Grazie, Tommaso, provincia di Lecce. Pronto? Tommaso, dimmi. Buonasera. Siamo da Sogliano Cauro, Lecce. Sì. Volevo fare una puntualizzazione su Albano, che ha sparato un sacco di cazzate sull'Ucraina e la Russia, perché è l'Ucraina che ha fondato la Russia, non viceversa. Vabbè, ma al di là sul delle considerazioni storiche. Sì. No, quella era una puntualizzazione che volevo dare. Sul fatto di Napoli ha ragione lei. I carabinieri purtroppo hanno fatto un piccolo errore, però che i ragazzi non potevano andare su... Se uno si ferma all'altro, bisogna fermarsi. Certo. Non c'è spiegazione. Se io non c'ho niente da nascondere, io ho un passato anche di piccoli reati. Quando andavo in giro per fare cazzate, non mi fermavo. Ma è normale, stiamo parlando veramente del nulla. Tutti siamo colpiti dalla tragedia di una. Ma uno può dire, uno può bruciare le macchine. Poi c'è gente che scrive: Saviano, abbiamo la nostra Ferguson. Ma quale Ferguson? Saviano ha rotto i coglioni, scusa. In che senso, scusa, Tommaso? Nel senso che lui mi sembra il deus magno di ogni problema di camorra. Lui capisce, lui sa, lui fa. Abbiamo la nostra Ferguson. Ma di che stiamo parlando? La nostra Ferguson, quella più grande puttanata che poteva dire. Perché se quei tre ragazzi andavano in due con il casco, si sarebbero fermati e non stavamo a parlare, credo. Oh, finalmente, grazie. Ciao. Io quando scappavo. Cioè, ma che hai fatto tu? Spacciavi? Che facevi? Grandi traffici di piccole cose bianche lì. Ho preso la mia condanna e l'ho pagata. Cioè, ma tu sei capito? Spacciavi cocaina, questa è la sostanza. No, importatore ufficiale facevo, piccolo artigiano. Cioè, importavi cocaina da dove? Scusa, Tommaso. Brasile. Dal Brasile. Quanti anni hai preso? 4 anni, il massimo che potevo prendere, perché ero incensato, un bravo ragazzo, ero geometra. E quanti chili hai portato dal Brasile, scusa? In tutto sono ai 12 durante la mia carriera. Porca miseria. Oh, 12 kg, 12 kg e cocaina portati dal Brasile. Vabbè, Tommaso, per carità, uno ha pagato. No, per carità, un corno, però. È stato in galera, che deve. Credo. È stato in galera. Dove doveva stare, credo. Scusa, ma che facevi? Sniffavi pure o no? Sniffavi pure, sì, certo. No, non pure, anche ogni tanto, quando ho la possibilità. Vabbè, facevi, sniffavi. Sì. E adesso pure? No, a tempo perso adesso, perché. Ma che vuol dire a tempo perso? Non è che sono cambiati di molto. E prendo 1.000 euro al mese, quindi non diciamo, c'è più l'euro. Ma che fai adesso? Bravo. Camionista, che fai? No, faccio lì presso una piccola fabbrica di caldaie a pellets al mio paese. Sì. Grazie a Dio prendo il mio 1.000 euro al mese e cerco di andare avanti. Capito? 12. Ma quanti anni fa 12 kg da Brasile hai portato? Dal 92 al 97, poi il mio processo è finito nel 2010. Hanno cacciato il diritto di voto per 15 anni, quindi. Ma non ho capito, ma quanti soldi hai fatto da questa cocaina che portavi da Brasile? I soldi facili si finiscono tutti, Cruciani. Cioè, te li sei sparati tutti? Cioè, li spendi, vivi diversamente, fai il gradasso, il coglione. E purtroppo. I soldi cattivi sono. Bravo. Vabbè, ciao. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. Costa Cruciani. Antonio da Vicenza. Sai che è bello questo esordio di Floris, veramente? Ma io c'ho una frase di Adinolfi qui che dice: ma che è sta zozzeria di Floris? Un po' scopiazzatura americano, un po' Pagnoncelli webcam più Camusso. Sì, ma non è male. Invece c'è Geppi Cucciari. Ma chi se ne frega? Stiamo facendo la radio, ma che cosa cazzo ti frega di quello che succede? Veramente mi interessa. Antonio da Vicenza, io guardo fammi e sentire. Seguo tutto. Vabbè, d'accordo. E mi piace noi questo. Noi dobbiamo subire alle 19:50 le leccate di culo di Parenzo alla 7 no, a Floris. Intanto vabbè. Col cazzo che dobbiamo che fare? Vici Mario Borghezio, non buonasera alla Marione. 7, quindi non, fa, non me ne come frega andiamo? Niente. Esprimo come un giudizio andiamo? Mio tecnico. Tutto bene, giudizio anche tecnico. Se la linea è sì. Un po' disturbatina. Ah, è sì. Disturbatina la linea, Marione? Ora si sente benissimo. Come va? C'era un'interferenza. Come tutto andiamo? Bene, siamo qui a Bruxelles che difendiamo le nostre posizioni moderate. Sempre, sempre moderate. Sempre. Beh, ormai siamo in piena guerra e quindi con l'Ucraina, eccetera. Ma siamo in piena guerra anche con l'Islam, caro amico Mario. Sì, proprio oggi ho avuto anche l'audizione del Gran Mufti Cairo, il Gran Mufti dell'Egitto. Sì. Il Gran Mufti dell'Egitto è venuto qua alla Commissione del Parlamento Europeo a esporre la visione del cosiddetto Islam moderato. Che esiste secondo te o no l'Islam moderato? Ma l'Islam moderato è tutto da verificare. Io gli ho chiesto impegni sulle moschee perché dico lei ha fatto un bellissimo discorso moderato eccetera che, però? Dice però la realtà che noi conosciamo purtroppo in Europa e particolarmente nel mio paese è di moschee nelle quali, mi scusi se la mia chiarezza si insegna a sgozzare i poveri cristiani eccetera eccetera e quindi si diffondono dottrine. Senti però io Mario volevo chiederti una cosa, hai visto quello che è successo a Napoli con questo ragazzo, la morte di questo ragazzo, il colpo partito dal carabiniere, non si sa bene se volontariamente oppure no. Ecco, ma la tua ricetta per Napoli di fronte a questa illegalità diffusissima di questi ragazzi che andavano in giro in motorino senza casco e poi questa tragedia, la ricetta personale di Mario Borghezio qual è, esponente europarlamentare della Lega, qual è? Ma la mia ricetta è un po' come inista, perché su queste cose io non dico che bisognerebbe tagliargli le mani e i piedi, però certamente non mi appecorono al bonismo nazionale e soprattutto quei ragazzi se la sono cercata, dici te. E non nascondo il mio disgusto soprattutto per le manifestazioni dei palubistiche del rione Traiano, che è un rione, bisognerebbe chiamarlo rione Vergogna, non solo per l'azione dei tre teppisti, questi con tutto il rispetto che si deve avere per uno che è morto, ma voglio dire teppisti rimangono anche se morto. Sì. Magari il giovane che è morto neanche precedenti penali, Mario, scusa. No, però teppisti, perché per teppisti si intende uno che gira senza casco, se non si ferma all'alto dei carabinieri, eccetera, con tutto il rispetto per chi è morto. Questo sempre. Ma tu dici un po'... Specialmente se ha 16-17 anni. Se la sono cercata, però, tu dici, se la sono cercata o no? No, è tutto lì, ha ragione chi ha scritto su Libero che è tutta la città da condannare, cioè il responsabile di questa morte è Napoli. Ah, è Napoli. Non è una certa Napoli, mica tutta, però. Beh, però è Napoli, diciamo, complessivamente parlando, una certa Napoli che direi che manifesta appunto con le manifestazioni queste mamme urlazzanti del rione Traiano. Indecorose, manifestazioni indecorose. Ma che ci vorrebbe? L'esercito? L'esercito? Come fece lui con Mori? Che ne so, Io credo se non ci vuole Mori in una situazione come Napoli, non so dove ci voglia. Ma direi che è il minimo necessario. Qui bisognerebbe fare dei rastrellamenti in certe zone, in certi quartieri. Cioè rastrellamenti come ai tempi sempre di lui. Sono zone di camorra, zone di camorra, e quindi c'è questa cultura camorrista diffusa a livello popolare. Sì. L'assalto popolare alle gazzelle dei carabinieri o le macchine della polizia che arrestano uno spacciatore, sono una cartolina di una certa Italia di cui Renzi, il gelataio, non parla mai, ma in tutto il mondo vengono sì. viste e ci inchiodano una certa visione dell'Italia. Una scusa un attimo, volta venivamo visti come mandolinisti, adesso il volto dell'Italia è quello delle mamme urlazzanti del rione Traiano. Ma scusa, che indicano il diritto di fare il cazzo che si vuole, di girare senza casco, di non obbedire all'alto ai carabinieri, di spacciare tranquillamente perché ma quella è Italia, Mario, non ho capito, secondo te? Ma io sono sulle posizioni della figlia di uno dei Marò. Cioè? Questa non l'Italia, sì. ma questa Italia che dà queste immagini di sé è un'Italia di merda. Attento al DDT, sai? Siete proprio delle bestie. Oh, a proposito di Freccero, che avete sentito in questa vocina, beh, in questi giorni è scatenato Carlone Freccero, ne dice di tutti i colori contro Obama. Senti che dice, senti. Siamo arrivati in qualche modo a pensare che Obama sia meglio di Bush. Ma la puttanata incredibile, Obama è peggio di Bush, è lui che ha inventato l'ISIS, è lui che l'ha inventato con la questione della Siria. Leggete i giornali, ricordatevi le cose, tutto il discorso fatto sulla Siria, che la Siria mangiava i bambini e alimentava e dava le armi a quei porci lì. Beh, è numero uno, Freccero, chi è che ti sta chiamando? Ciao Libero, caro, ti chiamo dopo così ti confermo. Chi è? Ciao, Libero. Grazie, fratello, ciao. Chi è? È un operatore mio amico per Napoli. Ma roba da pazzi, ma magari ti arriva una saraccata a Napoli, Una saraccata di botte a Napoli, Magari arriva a te, visto quello che dici. E chi ce va a Napoli? Gli do l'indirizzo. Ah, perché c'hai paura, certo. Io almeno vado in giro a testa alta di quel che dico. Mi minacciano. Ma fanno benissimo a minacciare, ma mica solo loro. Ma perché? Perché dico che in parte la responsabilità di Napoli. Ma dici cagate dappertutto, a chiunque ti minaccia. Se vai in giro, chiunque dice, ma quello è un cretino, ma te lo ammazzo, se lo prendo, quello è un coglione. Chiunque. Allora, però, ci stava ascoltando Borghezio, ci ha chiamato Pasquale Squitieri. Ciao Pasquale. Ciao Giuseppe, ciao. Oh, ciao. Signor Squittieri. Che dici? Perché c'è? Che è successo? Hai sentito Borghezio? Ma sai, io credevo che fosse morto Borghezio. No, come morto? Invece è ancora vivo. È vivo, sì, è vivo, è vivo. Povero Marione, no, dov'è? Ma parla così come un cadavere. Perché come un cadavere? Dici, non ho perché, capito. Perché sai, quando sento queste storie sul sud, su Napoli, sul Mezzogiorno, cioè noi che subiamo quotidianamente le cazzate di Grillo, che continua a insultare i governi, i presidenti della Repubblica, cioè a violare in maniera così feroce le leggi della convivenza. E poi ci meravigliamo che a Rione Traiano ci sia una folla contro lo Stato che così grida, strepita, preferendo la camorra a questo Stato che è inesistente. Cioè tu dici, fanno bene a preferire la camorra? No, sono costretti. Cioè questi ragazzi senza casco mangiano a Napoli da 10 anni, non li ha mai fermati nessuno. La loro sfida al sistema, che non funziona, lo sappiamo tutti, è questa, è una delle sfide. Devi sapere. Ma io non ho capito, tu condanni al di là dei fatti poi eccetera, ma una responsabilità a Napoli con la sua illegalità ce l'ha nella morte di questo oppure no? Che cosa? La morte di? Nella morte di questo ragazzo, ce l'ha una responsabilità pure Napoli con le sue illegalità oppure no? Ma per carità, guarda, quando si parla di morte, cercare una legalità della morte è una cosa pazzesca. Questo ragazzo fa parte di una cultura. Cioè una cultura che ha abbandonato lo Stato nel 1861. Eh beh, ho capito, allora c'ha ragione Borghezio. Non è l'Italia. Allora, L'Italia è venuta a Napoli tagliando le teste, come fanno questi del jihad, perché il jihad è maschile, non femminile, come questi stronzi di giornalisti continuano a scrivere. Leggetevelo il Corano. questi stanno tagliando le teste, benissimo, l'esercito italiano non solo tagliava le teste nel sud, ma poi le esponeva, ci abbiamo le fotografie, così è stata fatta l'unità d'Italia sul popolo meridionale. E dunque è giusto che... Dunque noi ci portiamo a un momento, questo stesso esercito, parlo di Cialdini, poi faceva l'accordo con la Camorra perché non poteva governare il territorio, la Camorra era molto più forte dell'esercito italiano e faceva l'accordo con la Camorra a Napoli e tutto questo è documentato, basta leggere. Ma la Camorra ha avuto un ruolo positivo secondo te allora? No, ha avuto un ruolo determinante, cioè ha tenuto in piedi il governo italiano. Dunque ha avuto un ruolo anche sociale. Ma ce l'ha ancora, fratello mio. Un ruolo sociale, dice. La mafia, la Camorra, la 'ndrangheta, che governano l'economia. E come fa? Le banche come fanno a acquisire il contante? Ma con la mafia, con la Camorra, con la 'ndrangheta, ma lo vogliamo capire o no? Allora, Pasquale, però Borghezio prima ha detto che in un quartiere ci vorrebbero dei rastrellamenti. Ma che rastrellamento? Ma Borghezio è un fascistello da quattro soldi. Lui dovrebbe essere l'alfiere di qualcosa di importante, la sua cultura, il suo paese, la sua religiosità, che non hanno niente a che fare con il resto dell'Italia. Marione, hai sentito che ti dice Squidieri? Penso che sia un'ora pericolosamente tarda della sera, forse questo uomo di cultura magari comincia ad avere... Cosa? Ha bevuto, eccetera, è una persona anche di una certa età, bisogna avere anche un po' di tolleranza e quindi io non mi sento di prendermela con una persona che dalle cose che ha detto si evince chiaramente che non è composto sui. Quindi cioè, dice che hai bevuto, che non sei sui, Pasquale dice che non sei in te. Non è nel pieno, quindi magari in parte, ma non cioè, è ancora. Io avrei quindi... bevuto. Sì. Io avrei bevuto. No, io dico che ci vuole tolleranza per chi. Diciamo, io ti sto dicendo, Borghezio. Sta un po' già ragionando. Ti sto dicendo. Io non parlo perché mi definisci un morto che cammina, quindi capisci. Io parlo con delle persone, diciamo così, che. Vabbè, però lascialo parlare un attimo, ti stava dicendo una cosa, scusa, Pasquale. No, io sto dicendo, perché... No, mi hai chiamato morto che cammina, mi chiami fascistello. No, ma è il diminutivo che non mi piace, perché il termine fascista è un termine al quale bisogna accostarsi con rispetto religioso. Ma non fare questi esercizi di grammatica. Non è grammatica, è filosofia della politica. Cioè, chiamiamolo fascista. Fascista direttamente, tu dice. Sei un razzista di merda, allora guarda, il tuo epitaffio è questo, io vorrei che tu parlassi più seriamente. Ha detto che sei un razzista di merda? Diciamo che le espressioni che hai usato dimostrano che a Napoli ci stai perfettamente, in quella Napoli lì ci stai perfettamente, mi stupisco che tu non sia sindaco di questa Napoli, perché saresti la persona ideale. Come? Sei un poveraccio. Ciao caro, ciao. Ti eleggeranno volentieri, i camorristi ti eleggeranno volentieri, sei un ideale come sindaco di Napoli. Non mandatevi a quel paese, ma scusa, un uomo di cui non lo sia, perché di quella Napoli lì, del rione Traiano, almeno nel rione Traiano ci saresti bene come sindaco facente parte. Infatti ci sto. Meglio di De Magistris. È difficile superare De Magistris, ma tu lo supereresti. Ciao. Io sì, De Magistris è un poveraccio. Ma che è successo? Non è difficile superare De Magistris, anche tu potresti superarlo. Ciao Pasquale, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao cara. Gianmarco, provincia di Padova. Sì, ciao a tutti. Intanto, dimmi. Anche se non ci sente più, un grosso abbraccio al grande Marione, sempre uno che ci mette sempre la faccia. Vabbè, poi? Niente, volevo dirvi per Napoli, ma per Padova anche. Io abito in provincia di Padova e finalmente abbiamo un sindaco che ci mette anche lui la faccia e finalmente anche sta mettendoci grosso impegno per cercare di vabbè, adesso qui questo bene, però Gianmarco radio non è, spot, non radio è Badania, il comitato ottimo. Elettorale di Bitonci no, questo non è qua. Campagna elettorale, allora, bisogna avere legalità in questo paese, come a Napoli non c'è legalità. Vabbè, allora e invece a Padova che sta succedendo a Padova? A Padova la gente comincia a stancarsi di questi accattoni che prendono, ti tirano le mani, vogliono che vengano un cartolino. Adesso non esagero, non credo che ci sia l'invasione degli accattoni a Padova. No, Io sono per l'ordine nelle città, sono per l'ordine massimo nelle città. Per il decoro, ma non credo che ci sia l'invasione degli accattoni. Se vuoi ti invito un giorno, vieni a prendere uno spritz con me a Piazza della Frutta. Piazza della Frutta. Una decina di rom a cattone che ti chiedono la carità, se non gliela dai stanno ferme davanti, tu sei seduto tranquillo, ti stai pagando il tuo spritz a 3,50 euro, 4 euro e i camerieri non possono farci nulla. Allora, una volta che lo Stato interviene, sia a Padova ma anche a Napoli, perché si dice tanto lo Stato interviene mai, una volta che lo Stato interviene, finalmente, dopo ma lo Stato interviene per che cosa? Vogliono sequestrare i soldi ai cosi? Vogliono sequestrare i soldi agli accattoni? Questo vogliono fare? Non vogliono sequestrare, vogliono fare un po' di pulizia di ordine, perché se tu vieni come turista, ma anche come persona, ti danno fastidio, perché non è che ti chiedono i soldi e poi se ne vanno via. Stanno, ti tirano, se ti Parenzo, rispondi, Parenzo. Ma cosa se rispondi se cosa? Ma danno fastidio, chiaramente dà fastidio lui, figurati, perché e non è che per questo chiamo la forza pubblica, mi dà fastidio lui, mi dà fastidio la volgarità, ma non è che per questo io chiamo i carabinieri, scusami, dai. Ma lui dà fastidio la volgarità. Mi dà fastidio la volgarità, molto, non è che chiamo i carabinieri, però mi dà fastidio le bestemmie, mi dà fastidio la volgarità. Ma se invitavi le peggiori delle puttane a Tele Lombardia, falla finire. Invitavi le puttane, le froci, le peggiori persone. Adesso invece è diventato snob. Si cambia, si cresce. A me dà fastidio quello che dice questo qua, pensa a te, ma non è che chiamo la polizia, mi dà fastidio la volgarità ostentata, perché io so essere molto volgare, come sai, ma mi dà fastidio la volgarità ostentata. La volgarità, ma chi la decide la volgarità? Io. Chi la decide? Ho detto il mio parere. Chi la decide? Io. Qual dov'è la volgarità? Io. Figuri, posso considerare volgare la cosa più normale del mondo? Io, figuriamoci. Beh, ma io, ho dei parametri per me stesso. Ma smettila, cazzo. La pubblicità, io dai, decido, forza, io su di me decido dai. Cos'è volgare. Dai, posso farlo ancora? La volgarità, gli dà fastidio la volgarità. Sì, ma mi dà fastidio Ti vorrei far sentire delle cose che dicevi, mi dà fastidio la volgarità. Qual è la volgarità? E lo ripeto ancora. Ma dov'è la volgarità? Posso decidere io cos'è volgare? Dove risiede? Posso decidere cos'è volgare? Dai, dai, dai. La finita, dai. Bravo, bravo. Spettacolare, spettacolare. Ormai è tutto degradato. Riceviamo, caro David, tanti curricula. Senti questo qua che è incredibile. Un tale che si chiama Filippo De Nittis da Matera. Adesso studia, dopo aver fatto la Bocconi, sta facendo un master a Shanghai. Uno dice, però, chi se ne frega. Ma senti come si propone qui alla Zanzara, eh? A parte che, amico mio, cioè, Bocconi, Shanghai, ma resta lì in quel mondo. Che vuoi fare in questo mondo qui? Dove c'è Parenzo? Che vuoi fare? Senti. Ciao Giuseppe, sono Filippo, studente bocconiano a Shanghai, tu trasmetti intorno alle 19, io ti sento in podcast la mattina mentre vado in università. Sì. Sono qui a fare un double degree in international management e sarebbe un piacere per me condurre con te almeno una volta a settimana la trasmissione quando il buon pensante di Parenzo è a Bruxelles o a fare i cazzi suoi. Ma non è vero, abbiamo forse gli stessi gusti anche in termini di donne, perché so che sei un feticista anche tu. Ma che vuol dire? Sei un piacerebbe davvero tanto, perché abbinerei un'irriverenza verbale a livelli altissimi, una conoscenza della politica, dell'economia e del buon costume buon costume, anche eh? Molto molto spiccato, conoscenza del buon in costume. In più sono fani anche molto bene le imitazioni, come puoi ben vedere, caro Giuseppe, mi consente. È umiliante, allora, vuoi prendere noi il Filippo? Siamo umiliati. Cioè, sono un voglio dire, in più ho praticamente sì. la mania di fare dossier, cioè mi piace dossier. Spiare le persone, dossier. Fare dossier, conoscere i carti di tutti praticamente. Aspetta, sempre stato in prima dossier. linea, diciamo, prima anche linea. A livello universitario nelle battaglie, ma non nelle ma battaglie, quali battaglie universitarie? Mi facevo eleggere rappresentante per stare un po' in mezzo a tutti quanti. Ma dossier, insomma, credo rappresentante di fare un, poi di fare un bel lavoro per la tua radio feticista. In più ho in mente anche questo programma, che se programma, ti interessare senti. Sarebbe sì un programma di una mezz'oretta, mezz'ora, in cui io metto in contatto le persone. Ah, per esempio, no, mi cazzo. Arriva una richiesta di qualcuno che vuole parlare di un progetto con quella persona. Noi, però, grazie alla radio, Radio 24, la nostra più grande emittente, li mettiamo, sì. in contatto, li mettiamo in contatto e facciamo, sì. un po' che di lobbismo in radio. Lobbismo, si può dire, caro Giuseppe. Genio questo. Senti, allora, programma io ti mando questo clip audio. Metteri spero di essere le persone. Per fare senti. Un demo con te. È davvero un piacere. Un bacio grande. Buona zanzara, sempre. Comunque, sì. combatti sempre, mi raccomando, sì. forza, forza, ciao forza. Giuseppe. Ciao, ciao. È pazzo. Fa dossier, ma che non è matto. Pazzo, completo. Pazzo. Questo è il numero uno. Matto. Da un certo punto di vista è il numero uno, lo sai. Ma certo. Da un certo punto di vista ti giuro che è il numero uno. Ma è il numero molto uno. Simpatico. Io, sai, faccio i dossier di notte, bisognerebbe vendere dei pezzetti. Faccio i dossier e so che anche tu sei un feticista. Ma che ne sai tu, sei un feticista di cose? Ma sì, ma questo è vero, forse è peggio. L'hai conosciuto da qualche parte, non lo ma so. Ma non l'ho conosciuto. Sai, vai a sapere, vai a sapere. Matteo da Terni, Matteo. Allora, Grucia. Dimmi. Ci siamo? Sì. Ci siamo, sei qui, sei. Matteo, ci siamo, cosa ci siamo? Cosa ci siamo, mi lasci parlare. Te Grucia, pazziando, sei un caso perso, giornalista altero di destra, snob, aristocratico, e ci siamo fatti una ragione. Di chi? Ma quell'altro lì che si parla di diritti umani, poi abbattono un bambino con le pistolettate e lui li a controllare se aveva l'assicurazione, se aveva la licenza. Ma di che stiamo a parlare? Cioè? A parlare. Il bambino di Napoli, l'altra settimana parlavate. 16 anni, 16 anni, voi come lo chiamate? Il ragazzo, certo. Il ragazzo, vabbè, allora, ma che c'entra? Ma che c'entra che questa te, vabbè, lo devi fare, ma Parenzo, le carceri, i diritti umani, però ma infatti ho detto che è una tragedia quella del ragazzo. Ma questo è ubriaco, Matteo, però, io non ho capito che cosa stai contestando tu, cosa stai dicendo? I vostri commenti su ma abbiamo avuto, abbiamo commenti diversi, abbiamo approcci anche diversi, se vogliamo, no? Ma no, un tempo aveva approcci diversi, te Cruciani dovevi fare questa scena qui, ma Parenzo almeno direbbe, sai, un tempo non c'era la pena di morte in Italia, adesso invece anche Parenzo ha detto, però il casco in tre motorino, No, ho detto semplicemente che la legalità, una cosa che è talmente noiosa da dire, perché dovrebbe essere la palissiana per chiunque. Ragazzi, ma veramente essere accusati di razzismo, perché uno dice che non ci si deve fermare ai posti di blocco, che ci si deve fermare ai posti di blocco, che uno non deve andare in tre in motorino, che uno si deve mettere caschi, sparato, se uno dice Cruciani. Ma ha sparato, vedremo come e perché è successo, vedremo come e perché è successo, oggi ci siamo noi filmati eccetera, ma si può dire che è una tragedia che non sarebbe accaduta, non si sarebbe verificata se questi signori avessero rispettato allora, la legge, grazie, si può grazie, dire grazie, oppure quella no sera, quella sera in cui tre ragazzi si può dire che è stato ammazzato anche da Napoli. Borghezio ha detto da Napoli, è stato ammazzato anche da Napoli. Lui ha detto da Napoli, io non dico da Napoli, anche da Napoli, oltre che naturalmente da quel colpo sparato, perché certamente qualcuno ha sparato, quella pallottola è andata a colpire da qualche parte, sarà partita quella pallottola, ma non c'è dubbio da questo punto di vista qui. Vogliamo dire che è una cosa gravissima, assicurazione. Vabbè, ma che banalità è dire una cosa gravissima, banalità, è una tragedia, banalità, sì, come banalità tu, ma che totale, banalità totale, come quelle che stai dicendo, banalità totali. Io sto dicendo cose fondamentali. Sì. Stai dicendo cose fondamentali. Fondamentali, sei come quell'altro di Shanghai, quello che ha chiamato lì. Dai, su. Pierangelo da Tortona, dai, Pierangelo. Sì, ciao, mi senti? Dai, sì, ti sento, vai. Sì, dunque, io sono ascoltatore di Zara e stimo Don Livio, anche se devo correggere Parenzo, perché non è una radio del Vaticano. La radio Maria è una radio. È vero, hai ragione, su questo hai ragione, è verissimo. Sì, ho sbagliato. Poi ha delle è posizioni che... E quindi, diciamo, ovviamente, anche se io non condivido tutto quello che dice Don Livio, però sulla morale sono un cattolico, anche se mi piace morire la zanzara, però io il voto lo do piuttosto a lui per quanto rispecchia la mia, il mio modo di vedere la vita, per la morale. E non ho capito, tu voti per lui e ci viene a rompere i coglioni qui chiamandoci stasera, non ho capito, Pierangelo. No, ti dico, mi piace anche la Zanzara. A parte che quando ti ho visto su Tango mi sono spaventato che non sei più tu, cioè sembrava un manichino lì messo lì. Vabbè, ma quello è un altro discorso, caro Pierangelo. Ne possiamo parlare a lungo dei ruoli in televisione, di quello che sì, bisogna però fare o che, no, o che cosa non bisogna fare. Se tu no, ti aspetti che io mi metto a pisciare sul tavolo davanti ad amico, hai sbagliato canale, cioè hai sbagliato trasmissione. Se ti aspettavi però, questo, non capito? Sei tu, ma che vuol dire un altro ruolo, un'altra roba, Pierangelo, un'altra roba. Cioè, non... Beh, io cambio canale quando e cambia tanto, canale, va benissimo, ma che cazzo me ne frega a me se cambi canale? Cioè, vabbè, che cosa me ne frega a me se cambi canale? Ma va benissimo che tu me lo dica, te lo faccio anche dire, però adesso io cambio canale e cambia canale, che tu vuoi che ti dica? Cioè... Sì, non riconosco la tua, diciamo. Ma tua... non la puoi riconoscere lì. Ok, d'accordo. Vabbè, niente, per quanto riguarda padre Livio, ti dico lui. Votalo. Che ti vuoi dire? Beh, noi invece preferiamo che tutto il popolo della Zanzara voti cuffiodoro.it per il sottoscritto e per la Zanzara. Okay, va bene. Capito? Okay, allora, comunque va bene, dai, forza. Lorenzo e ciao. Ciao. Piero da Firenze, dai. Ciao. Dimmi. E volevo rivolgermi a quei dementi di Firenze che faccia partire poi le querele, tanto quei, dopo uno. Perché quei è uno solo per ci ora. Ci si pulisce il culo con le tue querele, ha detto. No, beh, vabbè, esatto, sì. Io le sue querele mi ci pulisco il culo e se ne pulisca anche lui. Vedrai, allora, benissimo. Come una coglina di storie a uno benissimo, vedrai. Di merda, si ride. Insegnata. Insegnagli se subito e nella sua trasmissione 2 anni fa hai spiegato a cui c'hai accanto che la Galizia formata dagli ucraini accanto alle SS tedesche sono stati più cattivi e più atroci delle SS, gliel'hai spiegato a quel demente. Gli ucraini, però questo... E che c'entra? Al demente, sì, però Piero, scusa. Povero decorticato, che c'entra questo? Senti, decorticato, cosa c'entra, povera fava decorticata? Povero decorticato, cosa c'entra questo? Eccolo qua. Teo Kolomoski è quello che sta finanziando i nazisti. L'ebreo Kolomoski. Vabbè, questo adesso non lo sappiamo. L'ebreo Kolomoski è quello che sta finanziando i nazisti dove in Ucraina. Vabbè, ma questo che c'entra? Quali nazisti? Ma che ne so? Coglioni con i nazisti che hanno fatto del male agli ebrei. Quando lo fanno alle popolazioni del Donbass, gli va battuto le mani. Fava! Hai capito? Fava! Beh, caro decorticato, pseudo esperto di politica internazionale, caro il mio decorticato. I russi hanno invaso. No, che hanno fatto i russi? Che hanno fatto? Non hanno invaso? Che hanno fatto? Di chi erano i carri armati? È perché sei una testaccia di cazzo e non Amen. Capisci una sega. Amen. Passa una bella serata. Russi, passa una bella serata. Vabbè, io non ho capito, Piero, perché non ho capito qual è il punto. Perché dai del demente, allora, eccetera, a Parenzo? Non ho capito su che cosa? Ebreo, che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Ebreo, cioè, non ti sta bene che critichi Putin? Non ti sta bene che critichi Putin? No, mi sta bene tutto. E allora che cos'è? Che cos'è che ti dà fastidio di Parenzo? Non capisco. La ubriacatura molesta. Il fatto è l'alcol. Lui, quando parla di nazisti e quello che hanno fatto agli ebrei, ci fa due palle così. Stanno facendo i nazisti l'Ucraina contro i russi, no, è da applaudire perché è la libertà. Kolomoski è un ebreo. Vabbè, tu vuoi dire sostanzialmente che il governo di Ucraina è un governo di nazisti. Che è un governo di nazisti. Ma chi l'ha detto? Per l'Europa non è così, mi pare, no? Genio della genio demente. La storia. Diglielo Cruciani, 2 anni fa hai fatto una trasmissione. Non di storia. Vabbè, lascia perdere 2 anni fa, non mi ricordo non niente. Non pare che per l'Europa e per la NATO sia così, poveretto storia, tu. Papa, poveretto tu. I russi non hanno invaso l'Ungheria, sono stati sovietici. Vabbè, questo lo sappiamo tutti, certo. C'era un ucraino. Demente. Stalin non era un russo. Ma di che cosa ti fai tu la sera alle 20:26? Di che cosa ti fai te? Ma di che ti fai tu la sera? Di che ti fai? Ma per ridurti così, te me lo devi dire di che ti fai, perché veramente non è una roba buona, eh? Perché sei ignorante. Ma io voglio dirti questo, povero decorticato, ma c'hai ragione te o l'Europa e la NATO? Cioè c'ha ragione sto demente che prende il telefono e chiama o la NATO e l'Europa? Ma che c'entra questo? Beh, ma insomma, io francamente mi fido di più di Francia, Germania, io mi fido di più di questi che non di questo povero decorticato che chiama alle 20:27 dopo aver bevuto dell'Ambrusco, perché francamente francamente l'uccello non ti serve a un cazzo. No, te ce l'hai nella testa, Porello, però insomma ce l'hai nella testa, l'hai tagliato troppo, si vede, amico mio, in testa ti sei tagliato, perché l'hai confuso, diciamo, no? Hai confuso i due organi e quindi hai capito, te confondi tutto. Appunto, appunto. Amen. Mi saluti tutti a casa, amen. Infatti, saluti tutti. Usale quelle mi saluti tutti a casa sua, Prova a fare la scritta. Mi saluti tutti a casa sua. Gaetano da Savona, poi ci risentiamo tra qualche minuto. Gaetano da Savona, vai. Livio Fanzaga for president. Ma dai, basta con sta stronzata, su, dai, Gaetano, dai. Per favore, e lui almeno le dice le cose. Ma voi perché noi intelligente le dite? Perché noi ma invece le spara proprio tutte, Noi invece non le diciamo, no. No, ma no. Quello le dice in una maniera diversa, ma le dice parolacce. Ma quello che c'è, ho capito, ma se non ti piace cambia, vai a sentire Don Livio Fanzaga. No, aspetta, forse hai sbagliato. Cosa? Io sto dicendo che Fanzaga, veramente come la scenetta di Totò. Cioè? Voglio vedere sto scemo dove vuole arrivare. Ma secondo me lo votano solo per vedere dove vuole arrivare quest'uomo qui, perché dice forse le parolacce peggiori delle vostre, perché voi alla fin fine parlate un linguaggio che secondo me è anche divertente, ma quest'uomo qui si nasconde dietro una finta, come dire, religione, ma dice delle cose incredibili, perché io l'ho sentito. Che dice? Ma no, lo so che appunto quello che avete fatto sentire voi stasera attraverso i piccoli spezzoni, cioè quest'uomo qui in confronto a voi è molto ma molto più aggressivo e molto più ma certo, è quello che dico io da un certo punto di vista, sì. È da votare, non siete da votare voi, ma vai a cagare, dai, ma vattene, Gaetano, va attento al DDT, sai. You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Vota Cruciani. You really got me now, you got me so I guess. E ti credo che bisogna far vincere nella categoria cuffiedoro.it, cuffiedoro.it, votate, votantonio. Nella categoria, no, celebrity, conduttori, bisogna far vincere padre Livio Fanzaga, Don Livio Fanzaga. No, ragazzi miei, no, capisco che posso fare pubblicità in questo modo, capisco che posso fare pubblicità indirette, anche se non ne hanno bisogno perché hanno mobilitato chiunque, lo dice lui stesso, Don Fanzaga, dai microfoni di Radio Maria ha mobilitato la grande comunità, che sicuramente è grande, o comunque grande per far vincere una votazione di questo tipo, però si mobilitano, no? Si mobilitano. Allora, ma signor Don Livio Fanzaga è quello che ha detto che Satana devasta le menti. Cioè Satana devasta le menti. Tu capisci che non possiamo permettere. Io ne dico di tutti i colori, per carità, però non dico che Satana devasta le menti. Certo che, amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori e si prenda gioco di noi. È impressionante. A volte siamo di fronte a possessioni diaboliche di gruppo, di massa addirittura. Io conosco solo l'amore di gruppo, non altre cose. Non persone però, possedute, non gruppi che sono posseduti da Satana, dai, su. Poi una volta se l'ha presa pure con Madonna, ma non con la Madonna naturalmente, ma con Madonna la cantante. Ah, con la cantante. Certo. Senti, ragazzi. ragazzi, su, ribelliamoci! Ribelliamoci a questo signore! Non è possibile, andate tutti a votare per me e per la Zanzara o per altri anche, ma non per questo signore, è un reazionario! La Vergine Maria, pura e bella, dopo 2000 anni è sempre quella. La Ciccone, invece, a 50 anni non riesce a nascondere i danni. Cara Ciccone, sei sottoposta alla corruzione. Parlo quella del corpo, che è la peggior cosa che possa accadere a una donna. Ma abbiamo con noi. Beh, però è forte, c'è niente da fare, Ma guarda, dai, che tu oggi bisogna prenderti veramente a calci nel culo. Ma è fortissimo, dai, ma dice delle cose pazzesche. Ma che cosa, ma dobbiamo, quando uno va alla guerra e c'è una battaglia, questo si dice dopo, si va alla battaglia. So che non sei coinvolto in questa battaglia, che come sono al solito sono coinvoltissimo della battaglia, però nulla, bisogna rendersi non conto, te ne fotte nulla degli avversari, ma questa è una cosa, te ne va, stai zitto, togliere il microfono a questi imbecilli, appunto, togliere il microfono a questo qua che non gliene frega niente. Ma è con noi la mitica Alda Deusanio. Ciao Alda, come stai? Ciao ragazzi, non sono la Madonna prima di tutto, ma essendomi collegata adesso, mi spiegate chi è quel signore? Allora, quel signore si chiama Don Livio Fanzaga ed è uno dei degli speaker, anzi il principale speaker di Radio Maria, sostiene nell'ordine che tutto siamo posseduti da Satana, i peccati, eccetera, perché c'è Satana che devasta le menti, se la prende con Madonna perché dice quello che dice per i suoi show, dice anche che il matrimonio è solamente quello tra uomo e donna e non esiste un altro tipo di matrimonio, eccetera eccetera eccetera, e vabbè, che... bisognerà segnalarlo a Papa Francesco in modo che chiami la Neuro il più presto possibile. Sì, soprattutto perché Papa Francesco non si esprime in questi termini, non è in linea, assolutamente no, assolutamente no, sarebbe veramente preoccupante ragazzi, visto che è l'unico che è rimasto a fare un po' di buona politica, addirittura l'unico, cioè l'unico, il Papa, sì. Allora devi sapere, caro Parenzo, che la settimana scorsa noi ci siamo persi una scena pazzesca, quella di Alda Deusanio che mandava letteralmente a fare in culo Matteo Renzi con un coltello, ha preso un coltello proprio nel momento in cui ci sono gli sgozzamenti e se l'è messo qui alla gola. Che significava che il coltello messo alla gola, Alda? Beh, il significato che vedevi. Cioè, infatti la cosa che mi ha colpito è che più che il contenuto ha colpito l'immagine. Noi siamo con il coltello alla gola, gli italiani sono con il coltello alla gola, paghiamo il 70% di tasse, lavoriamo 360 giorni per lo Stato e 5 giorni per noi, certo. Quello che viene fatto è qualcosa di assolutamente ingiusto nei confronti soprattutto delle fasce deboli. Io vado tutti i giorni al mercato del Trionfale, tu non hai idea, alle 2 del pomeriggio vedere alle 2 del pomeriggio quando arrivano le vecchiette cercano di acquistare o di farsi dare le mele marce, la verdura rovinata, le signore anche magari ben vestite che ti chiedono vergognandosi anche un aiuto economico, cioè è una realtà molto dolorosa. E Renzi che fa? Niente. Tu dici? Renzi quando fa il tecnico sbaglia di grosso, ma il fatto di, voglio dire, uno qualcuno glielo deve pur dire, non è che poi bisogna. E tu l'hai mandato, però tu l'hai mandato a fare in culo, però. Yes. Ma così come, proprio, come tanti di noi, solo che io ho avuto il coraggio di dirglielo. E come si dice? Perché per quanto riguarda il blocco degli statali, che sono anche gli infermieri, che sono la Croce Rossa, oltre che la polizia, oltre che le forze dell'ordine, è qualche cosa. Loro non hanno chiesto un aumento dello stipendio, hanno chiesto l'adeguamento, cioè ciò che gli spetta. Ed è però come ti è venuto, Alda, proprio dal cuore? Com'è che si dice Renzi? Com'è che l'hai detto? Dillo te. No, dillo te. Sei tu che l'hai pensato, l'hai scritto, però bisogna dirlo. Prima o poi non... No, io voglio sentirtelo dire, perché per un motivo molto semplice, che voglio inaugurare qui una serie di persone che sai quando Grillo mandava a fare in culo tutti? Invece uno dovrebbe dire, se uno si oppone ad una cosa, siccome il vaffanculo è stato sdoganato, si può tranquillamente dire per quello che stai facendo, per quello che non stai facendo, Renzi vaffanculo, bisognerebbe dirlo, allora, in maniera anche molto pacata, non c'è bisogno di strillarlo vaffanculo. Ma non c'è bisogno che io te lo venga a ridire qui alla radio, l'hai scritto. In modo molto chiaro, l'hanno letto tutti, un milione di persone l'ha letto, un milione, cioè, un milione, sì, sì, mamma 1.120.000, qualcosa del genere. Una cosa pazzesca. Alcuni di loro mi hanno insultata con improperi che non ti dico, altri mi hanno detto che sono d'accordo, che voglio dire, è un termine quello del vaffa, sì, che naturalmente ha inaugurato Grillo, sì, ma che non è necessario ripeterlo in continuazione. Una volta che l'hai scritto è un concetto molto lì, chiaro. Basta, resta lì, e basta. Molto chiaro, come il coltello alla gola, però quello poteva essere anche un po' fuori luogo, dato questi sgozzamenti. Perché che fuori c'è luogo, scusa? No, ma è una domanda, per me, figurati, per me è una bella provocazione. Ma perché la gente si è impressionata per il coltello che okay, io ho messo alla mia gola ed era una finta e si vedeva chiaramente, e non si è impressionata per gli imprenditori che si sono uccisi? Se ne saranno ammazzate una quarantina, 40 persone si sono uccise. La gente e si è impressionata anche per questo. Che si è ucciso perché è arrivato l'Equitalia e gli ha detto che la moglie che lavorava con lui e lo stava aiutando, lui gli doveva pagare i contributi. Ma tu sai che cosa mi ha fatto la multa? Sai, scusa, cosa mi ha fatto? Perché non si è impressionato per quello? Sai cosa mi ha fatto scandalizzare a me nel weekend, quello che ho letto, solamente nel weekend? Che secondo un articolo scritto da Franco Beghis sul Libero, in Banca Italia è aumentata anche quella che è stata chiamata l'indennità di cravatta, cioè il bonus per le spese di decoro, più di 20.000 euro l'anno per i cambi d'abito stagionali e le scarpe di marca. Allora, le paghe d'oro di Palazzo Koch, perché il caso di Banca d'Italia e dei soldi spesi per Banca d'Italia è uno dei grandi scandali italiani di cui nessuno parla. Allora, come dice il mitico Luttuak, è l'unico paese in cui il governatore della Banca d'Italia viene pagato 496.000 euro l'anno, il direttore generale 450.000 euro, i tre vice direttori generali 315.000 euro l'anno ciascuno, i 660 dirigenti 251.000 euro. Le indennità di rappresentanza, appunto, sono aumentate del 15% nell'ultimo anno. Questi sono gli scandali veri, la vergogna, capito? Aggiungici un altro scandalo. Qual è? Che hanno mandato una delle loro peggiori dirigenti, la Tarantola, a fare il presidente della RAI. Ecco che si torna alla RAI, si torna alla RAI. Eccola. Non è che si torna alla RAI, la RAI c'è sempre. Ma hanno mandato via pure la tua amica lì. La tua amica Licia Colò. Nessuno dice Licia Colò, Luciano Onder, Floris, i migliori. Hanno mandato Floris, i migliori, ma c'è pure gente che aveva fatto il suo tempo. Floris se n'è andato. Floris è andato pure per i Danè. Per i Danè anche Floris se n'è andato, Non lo so se se n'è andato per i Danè, se n'è andato perché la RAI non gli consentiva di fare più il suo lavoro come desiderava farlo, cioè crescere, e non solo per i Danè. Non mettete sempre i Danè in mezzo, perché non è così. Ma mi dicono era pagato abbastanza bene. Mi dicono che stai mangiando con un pappagallo, che succede? Giorgio, perché oramai è meglio. Chi è Giorgio? Ma facci parlare col tuo pappagallo. Giorgio è mio pappagallo. E comunque, che dice Giorgio? A parlare del fatto. Giorgio dice che appunto scrive quella parola famosa del vaffa. Del vaffa pure lui. Fagli dire vaffanculo a Giorgio, non a te. Lo no, sa dire. Lo dai, falla avvicinare il mitologico non so, Giorgio. Ma che si dica poi? Ha avvicinato solo che in questo momento sta mangiando la pasta coi pinoli. Gli piace. Cioè, cosa gli dice? Gli fai mangiare la pasta coi pinoli. Beh, certo, Giorgio, la pasta con i pinoli. Giorgio, certo. Tutto Giorgio è libero in casa, il veterinario impazzisce nel seguirlo perché vede per la prima volta un pappagallo che cresce in un ambiente umano libero. Sì. E lui crede che i poveri soffrono, persona, e i poveri soffrono al supermercato, e i poveri e tu dai da mangiare. Adesso infatti ci saranno quelli che dicono: ah, tu dai da mangiare al pappagallo mentre i poveri muoiono di fame. Esatto, brava, tu dai da mangiare al pappagallo. Beh, anche cose sofisticate, ma sai che a me piace tantissimo Seo Deusanio, mi piace da morire, una donna bellissima, è vero. Troppa classe per me, però Parenzo, troppa classe. Però non dite tutti i caffè che vi pago per farmi tutti questi complimenti. No. Ma i Marò, allora situazione dei Marò. Voglio sentire la voce di Giorgio, però, perché questo è veramente importante. No, sentire... infatti, anche io vorrei sentire la voce di Giorgio. Questo ma non bisognerebbe chiudere qua. Quali Marò? Sentiamo Giorgio. Sì, un attimo, quali Marò? Ma che c'è? Parlate di Marò. Parenzo, dimmi, più importante sentire la voce di Giorgio che parlare dei Marò. No, dei Marò abbiamo già parlato alla grande Aldona. Figurati, io, anzi, sono d'accordo con te. Aldona, che sembra una cosa da conosco da 15 anni. Da vecchia, scusami, sui Marò però vorrei dire una cosa che semplice, dire? Perché è una cosa pare che lo vogliono rimandare indietro finalmente. Tutti quelli che scrivono cose che non sanno, evidentemente, sì, li ritengono sai, mercenari dimmi. Pagati. Allora, tutti i dipendenti, cioè tutti i soldati comunque sono pagati, mica stanno lì a morire di fame. No, certo. Quindi i Marò, come tutti gli altri, prendono uno stipendio. Ma ce lo ridanno indietro sto lavoro o no? Non sono mercenari, aspetta, perché bisogna spiegarglielo a quelli che... Vabbè, ma non ti preoccupare, non lo sappiamo. Non sono mercenari per il semplice fatto che sono stati inviati lì dal governo, il quale guadagna sulla loro missione. Ma perché l'armatore della nave, invece di pagare una società privata per farsi difendere, paga l'esercito italiano. L'esercito italiano, è vero. Ma scusa, ma questi due poveri pescatori, le famiglie dei pescatori, hanno avuto già un loro risarcimento? Potrebbero accontentarsi, dici tu, o no? No, la morte di un uomo, di un essere umano, che sia pescatore, che sia indiano, che sia americano, è sempre un grandissimo dolore, non solo per la famiglia, per l'umanità intera. Però alla fine chi ci ha guadagnato fino adesso sono gli avvocati e la famiglia, proprio tecnicamente. No, anche la famiglia dei pescatori. In un paese dove bambine di 6-7 anni vengono stuprate tutti i giorni, questo l'abbiamo detto, sotto gli occhi di tutti, e nessuno dice nulla, anzi i stupratori vengono sostenuti dal governo. Vabbè, Alda, io non ho capito, ti dà fastidio che ti chiami Aldona, Parenzo o no? No, Parenzo con quella bocca può dire ciò che vuole. Beh, oddio, con quella bocca adesso siamo all'obbrobrio, è una cosa tremenda, Parenzo, di una bruttezza incredibile. Parenzo è intelligente, infatti ha detto tutto con questa cosa. Ha risposto Parenzo intelligente. Di te non ha detto intelligente. Che abbiamo chiuso la questione. Ma infatti il pappagallo Giorgio ce lo vuoi far ascoltare o no? Allora, il pappagallo Giorgio non parla, ma abbaia, perché è stato molto tempo con il mio cane, e da quando è morto il cane lui abbaia. Ma che mangia? Che mangia la sera? Mangia quello che mangio io. Ma è uguale, manteniamo anche un pappagallo. Le cose che piacciono a lui sono gli spaghetti all'aglio, pomodoro, basilico e peperoncino. I poveri soffrono. Chi c'è i poveri con quello? Ciao Alda, presto, ti abbraccio. Vediamoci presto, ciao. Un bacione a tutti, ciao. Andrea dalla provincia di Pavia, vai veloce, vai. Sì, ciao. Vai, dimmi. Vai. Allora, volevo dire una cosa a Parenzo. Senti, Parenzo, tutti gli anni, da 4 anni, vengono a rubare in casa mia i Rom. Lo so perché... Da 4 anni? Aspetta. Da 4 anni, tutti gli anni, nel periodo dell'anno in cui vengono le giostre, che sono gestite dai Rom, dietro casa mia c'è l'accampamento, vengono a rubare. Allora? Abbiamo provato di tutto. Io voglio chiederti qua se non sono criminali. Beh, quelli che rubano, certo che sono criminali. Vado a prendere il porto d'armi, il primo che entra gli spara e me ne fotto. Cioè, ecco, che cosa vuoi a chiedere il porto d'armi? Non so se ti daranno, perché dopo queste frasi, adesso che l'hai detto, sicuramente non ti daranno il porto d'armi. Però, cioè, tu vuoi, appena si presentano, se, poi bisogna essere anche sfortunati, no? Comunque, tu ti apposti lì e che fai? Se entrano in casa con violazione di domicilio, io sparo. Poi, se muore, se si ferisce gravemente, perché mi hanno anche ammazzato 2 cani per poter entrare. Quindi, me ne frego. Ci sentiamo domani. Un bacio grande e buona zanzara sempre e comunque. Combatti sempre, mi raccomando. Forza, forza. Ciao Giuseppe. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vota Cruciani. Radio 24. La passione si sente.